9 in punto, la versione di Oscar. Buon mercoledì 16 giugno e ieri la relazione annuale dell'autorità garante del mercato, l'antitrust, con la relazione di Antonio Catricalà, una relazione dolente per così dire, su molti punti del mercato, la concorrenza secondo l'autorità, insomma, o non c'è o è opaca o fa qualche passo indietro insieme a tanti promessi passi avanti. Ci sono i promessi passi avanti delle iniziative nuove del governo sull'articolo 41 della Costituzione, con Tremonti che dal G20 di Busan insiste 2, 3, anche 4 volte a settimana dicendo basta troppe regole, cambiamo l'articolo 41 della Costituzione. Un dibattito sul fatto che poi sia così utile e necessario cambiare questo articolo 41 della Costituzione, visto che si potrebbe procedere con legislazione ordinaria a fare le liberalizzazioni. E la promessa che è venuta a Santa Margherita anche di aggiungere una modifica dell'articolo 118 della Costituzione, a mio modesto avviso una modifica del 118, del titolo quinto della Costituzione. 117 e 118 sono stati i due articoli che hanno più ingessato le competenze tra centro e periferia, tra autonomie e Stato, facendo impennare la conflittualità sulle competenze a livelli veramente storici, epocali. Questa seconda modifica a me sembrerebbe più interessante, ma è quella di cui si sa ancora di meno. Nel frattempo, le imprese, che sono quelle su cui si applicherebbero i vantaggi o su cui gravano gli svantaggi della mancata apertura alla concorrenza di molti dei servizi, che a differenza per esempio dell'impresa manifatturiera aperta ai mercati internazionali, sono ancora organizzati secondo mercati ipertutelati, protetti. Le imprese che cosa pensano del grado di concorrenza nel nostro paese? E domanda invece alla quale risponderete voi, vi prego, cosa ne pensate voi come consumatori finali nei settori che più colpiscono il vostro portafoglio, dalle telecomunicazioni all'energia, alle banche, alle assicurazioni? Chiamate per 800 24 00 24. Intanto però sentiamo cosa ne pensano le imprese. Questi sono i passaggi che ha dedicato di una certa energia il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al tema alla recente assemblea annuale di Confindustria. In Italia c'è bisogno di più mercato, questo noi lo vogliamo dire con chiarezza. Ancora poco presente o assente in troppi settori della vita economica. Mercato affidato ad autorità regolatorie carenti nei poteri decisionali in alcuni casi e le cui nomine in alcuni casi ne hanno indebolito autonomia e indipendenza. Le liberalizzazioni mancate continuano a penalizzare il Paese. Si manifestano sempre di più preoccupanti segnali di una vera e propria allergia al mercato. Secondo la Banca d'Italia, una decisa politica di liberalizzazione nei settori meno esposti alla concorrenza, libere professioni, commercio, energia, trasporti ed altri, potrebbero generare un aumento del PIL dell'11% e dei salari reali di quasi il 12% nel lungo termine, quindi parliamo di entità importanti. E secondo l'OCSE, le liberalizzazioni aumenterebbero la produttività in Italia di quasi il 14% nei prossimi 10 anni. Ma le cose non stanno andando così. La miriade di società a controllo pubblico allarga la propria presenza e tende a sottrarre spazi di mercato. Senza parlare dell'allarmante corsa in atto in Parlamento a ripristinare barriere all'ingresso a tariffe minime e per i servizi professionali. Lo abbiamo detto a Parma, lo ripetiamo. Se il governo e la maggioranza persistono in questa marcia indietro a tutto spiano sulle liberalizzazioni nel commercio e nelle professioni, noi ci metteremo di traverso e sarà opposizione dura, perché nessuno di noi si è mai sognato di chiedere tariffe minime per gli elettrodomestici, per le macchine e utensili, per gli abiti. Allora, se è questo che ci volete, ci mettiamo in fila anche noi, chiediamo tutte tariffe minime, il paese va allo sfascio, ma questo non è certo quello che vogliamo. Ecco, come vedete, il presidente di Confindustria è stata tosta, ha detto qua ci si annunciano iniziative di liberalizzazione, ma nella realtà questa maggioranza in Parlamento asseconda stop, freni alle liberalizzazioni del passato, tratta su blocchi di questioni come quelle degli ordini professionali, limiti all'ingresso, tariffe minime, che se chiedessimo anche noi provocherebbero delle reazioni popolari, per così dire. Invece, siccome quelli gravano sulle imprese, non ce li dobbiamo beccare. Il presidente dell'Antitrust ieri, ripeto, ha fatto un lunghissimo elenco, veramente anche solo con poche frasi, di poche righe, senza entrare nel dettaglio, di settori nel quale la concorrenza non ha fatto passi avanti o ha fatto passi indietro. Ha richiamato questa occasione che sembrava essere prossima, essere raccolta, quella ogni anno di una legge sulla concorrenza, per recepire proprio anche le indicazioni delle autorità, e che naturalmente non è entrata a far parte delle buone nuove abitudini del nostro paese, è rimasta una proposta sulla carta. Vediamo, al di là delle enunciazioni generali, un po' di esempi concreti, per sentire poi voi come la pensate. E presentiamo innanzitutto gli ospiti di oggi. Abbiamo con noi Guido Gentili, del Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore, e che da anni e anni segue la concorrenza e il mercato nel nostro paese. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Gentili. E in questa prima parte abbiamo intanto Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, che io ringrazio. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Alpa. Alla quale chiederei subito, visto che uno degli esempi concreti che faceva il presidente dei Confindustria era quello proprio sugli ordini professionali, e siccome uno dei disegni di legge più avanti in Parlamento è proprio quello sulla professione forense, qual è la sua risposta a chi dice: ma insomma, voi cercate tutele, e mentre noi siamo obbligati al libero mercato, il libero mercato fa bene a tutti, e perché non dovrebbe far bene anche a voi? Qual è la sua opinione, presidente? Perché sono due attività diverse. Una conto è l'attività d'impresa, che non richiede una laurea e non richiede un esame di Stato come sono richieste dalla Costituzione, non richiede un controllo della deontologia, non richiede la tutela del cliente dall'abuso dell'esercizio professionale. L'attività d'impresa è un'attività diversa, un'attività di carattere economico che offre prodotti e servizi sul mercato, ed è giusto che le richieste della Presidente Marcegaglia siano osservate alla lettera. Altro discorso è l'attività professionale, perché per fare una professione intellettuale occorre seguire un processo culturale, occorre seguire controlli, occorre eseguire attività secondo regole diverse rispetto a quelle che seguono le imprese. Quindi la mette giù dura, perché io capisco che di fronte alla durezza dell'attacco c'è una risposta altrettanto secca. Lei capisce, sì, che a caso di chi ci ascolta, io ci ho avuto immediati sms che dicono: ah, per professionista non sarebbe un'attività economica ma solo un'attività culturale. Naturalmente io invito chi è a casa ad ascoltare con grande attenzione la precisione chirurgica con cui il presidente Alpa ha indicato questi termini, che nella normativa configurano e indicano non quello che alcuni di voi hanno capito come un'attività culturale, perché il professionista non mi chiede soldi. Non ha detto questo il presidente Alpa, si è espresso con precisione chirurgica, però una risposta secca, diciamo così, all'attacco. Una domanda a Guido Gentili: è un dialogo tra sordi, per così dire? Dialogo tra sordi, certamente il campo è di quelli difficili da arare, insomma. Si capisce bene che, diciamo, a corrente alternata, di volta in volta, quando evidentemente dai colori dei governi che si succedono, diciamo, questo contenzioso, diciamo, si fa di volta in volta più forte con il governo in carica, mentre l'opposizione si incarica in qualche modo di fiancheggiare quelle che sono le richieste, diciamo, degli ordini professionali. Questa è la storia, diciamo, di queste vicende, della partita delle liberalizzazioni. E io voglio solo accennare al fatto che comunque certamente avremmo dei benefici importanti se, introducendo via via gradi più intensi di liberalizzazione. Non dobbiamo però pensare che si possa risolvere, diciamo, per decreto, in un colpo solo, una partita che da un punto di vista storico e culturale diciamo, caratterizza l'Italia in senso negativo da sempre. Noi abbiamo avuto la legge che istituisce l'autorità garante per il mercato nel 1990. In America la legge antitrust è del 1890, cioè 100 anni prima, voglio dire. Nel 48, parlavi tu prima del discorso della Costituzione, eccetera, quando proprio si discuteva, i padri costituenti discutevano dell'articolo 41 della Costituzione, ci fu Luigi Einaudi, grande liberale, che propose una legge contro i monopoli e fu sonoramente battuto. E quindi abbiamo dovuto aspettare poi moltissimi anni per avere una legislazione in questo senso. Quindi noi abbiamo a che fare con un ritardo storico, culturale e di che data decenni, quindi non possiamo farci l'illusione, diciamo coltivare l'illusione che si risolve con un colpo di bacchetta magica questo problema. Presidente Alpa, alcuni da casa ci chiedono, sì avrà parlato con precisione chirurgica nel definire la distanza tra una pura attività economica come quella di impresa, alcuni sono molto arrabbiati perché lei ha detto che non richiede una particolare deontologia nei confronti di stakeholder, cliente, consumatore e dipendenti, perché attualmente c'è una piccola rivolta di imprenditori che mi mandano dicendo venisse nella mia impresa, gli faccio vedere io il presidente Alpa. Però al di là di questo, le domande è: ammettiamo che naturalmente sia diversa, come è ovvio che sia, una professione che ha l'esame di Stato, eccetera, eccetera, che fa fede pubblica, che impegna anche la credibilità istituzionale in molti atti a nome dei rappresentati, come è quella dell'avvocato rispetto all'attività di impresa. Ma perché, chiedono alcuni, a voi le tariffe minime sì e a noi per tutti gli input intermedi o finali no? Perché queste cosa c'entrano le tariffe minime regolate rispetto alla differenza tra una professione culturale con albo esame di Stato rispetto all'attività economica? Ma non è che si possa estrarre questo profilo, questo aspetto rispetto alla disciplina generale delle due attività che sono diverse. A parte il fatto che da un lato si chiede l'abolizione delle tariffe, dall'altro invece questo governo ha reintrodotto tariffe molto calmierante per quanto riguarda gli arbitrati. Allora, se si devono togliere le tariffe e liberalizzare tutto, togliamo tutte le tariffe di ogni natura. Ma infatti ha sentito che il presidente Marcegaglia ce l'aveva col governo anche su quello, quindi sarebbe d'accordo con lei, anche se lei dice no, se mi mettono quelle allora le mettono anche a me. No, però vede, una cosa diversa, una cosa è produrre frigoriferi e metterli sul mercato, altra cosa è fare un'operazione chirurgica. Guardi, adesso mi fa esplodere letteralmente, perché guardi, qui c'è chi dice che è un po' più difficile fare un frigorifero, ecco, questo non le voglio solo dire, che si avventura su esempi sempre più delicati. In ogni caso, no, ma perché immagino che gli ascoltatori riescano a fare questa distinzione, no? Le tariffe minime, che sono minime proprio nel senso che sono molto basse, anche questo devo dire, rispetto ai costi che vengono praticati in altri paesi, per esempio in Inghilterra, dove non esistono tariffe minime e massime, c'è una libertà di negoziazione, quella forse che potrebbe essere auspicata da chi invoca la liberalizzazione, e questo implica che l'accesso alla giustizia è limitato soltanto ai ricchi, perché il costo della giustizia e il costo degli avvocati è altissimo. Non lo so, le tariffe minime riescono a compensare le tariffe massime, perché noi non vogliamo soltanto le tariffe minime, vogliamo che siano conservate le tariffe massime, perché nel nostro codice deontologico, cosa che invece non c'è nei codici deontologici di altre attività economiche, si dice che l'avvocato non deve approfittare del cliente e quindi non può imporre al cliente un compenso che sia superiore rispetto all'attività effettivamente prestata, quindi non può approfittare del cliente, capisce? Presidente, ma io adesso poi la concludo perché so che ha da fare e noi passiamo anche ad altri capitoli. Obiettivamente, per come funziona l'accesso nel nostro paese alla carriera forense, gli oltre 240.000 avvocati, lo sappiamo. Cioè, lei può dire davvero, siccome conosce, lei sa come funziona meglio di me, io credo di saperlo, perché tra la prima laurea e la mia prima tentativo professionale ho una qualche idea di come funzionano gli studi. Allora, vogliamo credere davvero che le tariffe minime servono a impedire quello che lei ha detto, una forma altrimenti che privilegia di accesso alla professione solo quella per redditi elevati, quando la realtà è che in studio per anni e anni si rimane con la scusa di imparare la professione a fare fotocopie e a sbrigare iter procedimentali di tipo puramente amministrativo per lo studio per anni e anni senza vedere il becco di un quattrino? Che cosa concretamente vuol dire, se non il fatto che hai alle spalle una famiglia che si può permettere, fino a che hai 32, 33, 34, 35 anni, praticamente di mantenerti? Lei si sente di dire che oggi non è così? Senta, io non voglio fare esempi personali, no, perché certo. Sono sempre. Mio padre faceva il tranviere, sì. Non ho avuto l'esperienza che dice lei di anni e anni di attesa, eccetera, perché io studiavo, la famiglia mi ha mantenuto fino alla laurea e poi dopo ancora, finché non ho passato l'esame da avvocato, e poi dopo ho cominciato a lavorare e siccome studiavo e rendevo, avevo le mie soddisfazioni economiche. Chi studia per anni e anni non passa l'esame, chi ha passato l'esame per anni e anni rimane in margine la professione, vuol dire che non si dà da fare oppure non ci arriva. Va bene, questa risposta è sanamente, rigorosamente meritocratica, secondo me non dà una vera risposta sulle tariffe minime, ma io lo capisco, quindi io ringrazio il presidente Alpa. Con Guido facciamo un secondo, che impressione hai avuto, una riflessione invece sulla relazione generale di Catricalà, che impressione hai avuto di questa relazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato? Ma l'impressione è una relazione, diciamo, prudente e, come dicevi tu, dolente, cioè elenca tutta una serie di elementi fattuali per cui può finire concludendo, diciamo, che la stagione, diciamo, delle liberalizzazioni in qualche modo si è inceppata negli ultimi tempi e quindi giunge a questa conclusione che è un po' sotto gli occhi di tutto, fa una carrellata di tutti i settori e qua e là puntualizza la situazione e dove dice che effettivamente siamo ancora indietro. Dà una spinta forte sul un contributo importante, secondo me, sulla possibile revisione costituzionale dell'articolo 41. E quindi da questo punto di vista è una sollecitazione importante nel momento in cui, diciamo, si è subito scatenata in qualche modo la battaglia su questo punto con tutto un fronte, diciamo, che dice non è utile toccare questo punto perché si fanno le liberalizzazioni in altro modo. Questo è vero, secondo me, però è anche vero che forse dovremmo riuscire in qualche modo finalmente oltre 60 anni della Costituzione a poter discutere della Costituzione in modo libero, franco, riconoscendo che cosa è giusto, che cosa è rimasto attuale e che cosa invece andrebbe cambiato, cosa difficilissima in questo paese. Sì, sono d'accordo, cosa difficilissima. Sentiremo gli ascoltatori nella seconda parte cosa pensano delle iniziative annunciate dal governo in merito alla modifica della Costituzione sulle liberalizzazioni. Intanto le parole testuali su alcuni settori a caso toccati ieri da Antonio Catricalà. Nel settore del credito il percorso di ammodernamento ha prodotto sì importanti risultati, ma i nostri ripetuti appelli a una legislazione di principi sulla governance bancaria sono rimasti inascoltati. Si tratta delle fondazioni azioniste, chi controlla la governance delle banche. La domanda, d'altro lato, è caratterizzata da scarsa mobilità della clientela e da intollerabili squilibri, stiamo sempre parlando delle banche, accentuati dalla simmetria informativa nei rapporti contrattuali con i consumatori e con le piccole imprese. Intollerabili squilibri. Poi, che ne so, andiamo alle assicurazioni. Dice Catricalà, i premi relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica, nonostante le recenti riforme, continuano a salire secondo dinamiche non chiare. Ci aspettiamo dagli operatori la massima collaborazione. Ancora chiuso, continuiamo, un altro settore, gli stimoli competitivi al settore del trasporto ferroviario dei passeggeri. Nel trasporto pubblico regionale recenti interventi normativi hanno di fatto rinviato sine die l'avvio delle gare e favorito l'incumbent, Ferrovie dello Stato, Trenitalia, negli affidamenti diretti. Poi, in campo autostradale, concessioni a scadenza lontana associate alla debolezza strutturale della vigilanza pregiudicano l'affermazione della concorrenza. Sorte analoga sta subendo il comparto delle gestioni aeroportuali, anch'essi monopoli naturali. Nel settore postale la liberalizzazione è ritardata, ma il diritto comunitario impone l'eliminazione della riserva come strumento di finanziamento del servizio universale. Poi arriviamo alla televisione e qui molti si metteranno a ridere, io per primo, perché la televisione in Italia è bloccata da decenni dal fatto che ovviamente l'arena televisiva duopolistica è dannatamente condizionata dal fatto che la politica è la televisione e quindi la concorrenza del sistema televisivo italiano mi viene da ridere. Cosa dice Catricalà sulla televisione? L'autorità sta conducendo un'indagine conoscitiva sul settore della televisione e a me viene da spezzare una lancia per il povero Catricalà, perché cosa volete che faccia il povero Catricalà sulla televisione italiana, a meno che gli chiediamo di fare la carica dei 600 a balaclava, cioè sciabola in mano contro una linea di fila di artiglieria, non può che condurre indagini conoscitive sulla televisione, lo dico con vera simpatia, perché come vedete poi i toni che usa il presidente dell'autorità sono tosti. Per esempio sulla sanità sanità ha fatto un attacco molto duro, dicendo testualmente: la sanità non può essere considerata l'albero della cuccagna, chiedendo meccanismi di grande trasparenza nella formazione dei costi, delle aste per l'acquisizione di beni e servizi intermedi da parte della sanità. Albero della cuccagna. Voi capite che in un paese normale, a parole di questa durezza, il Parlamento dovrebbe fare seguire atti concreti. Eccoci tornati in studio all'indomani della relazione annuale dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di Antonio Catricalà, dolente e insomma tosta nel dire: signori, io sono una vox clamans, qui proprio non si fanno gran passi avanti. Il governo annuncia nuove iniziative. Abbiamo sentito la difesa del presidente del Consiglio Nazionale Forense, che io dico, devo ammettere, ha scatenato un tumulto di reazioni qua tra i nostri ascoltatori con gli sms. Me ne leggo solo alcuni. Le tariffe minime servono solo a legalizzare l'evasione fiscale di avvocati e notai. Tiri fuori 4.000 euro, ma se il tariffario dice 1.000, ti fanno una fattura da 1.800 e siamo tutti felici e contenti. Oppure, allora introducano anche lo stipendio minimo per i praticanti o il loro decoro professionale dei laureati non vale, visto che il presidente Alpa dice che non funziona così per i giovani praticanti, come ha detto lei. Oppure ancora, anche negli appalti pubblici di costruzioni ci vuole una bella qualifica e l'impresa deve essere iscritta a un albo, ma non ci sono mica le tariffe minime per le gare, anzi. Ce ne sono veramente tantissime, no? Chissà perché le tariffe minime le difendono solo gli avvocati di una certa età e ben avanzati nella professione, o quelli che hanno una rendita da posizione da difendere. Sono tutte firmate poi, perché abitualmente spesso non sono firmate, ma questo tema delle professioni e delle tariffe minime, delle barriere d'accesso, io penso che sia un tema veramente molto molto sentito. La riforma che è in Parlamento, se va avanti su questa strada, divide e spacca la tutela richiesta dagli ordini professionali, in particolare da quello degli avvocati. Abbiamo parlato col presidente, quello degli avvocati è una tutela che lascia dietro di sé una scia di non solo perplessità, ma di opposizioni molto dure nell'ambito dell'attività del mondo economico italiano. Sentiamo come la pensano un po' di ascoltatori. Cominciamo con Luigi da Firenze. Prego Luigi. Buongiorno Giannino e complimenti, e grazie sempre di informarci in questo modo. Allora, io veramente, io sono con gli ascoltatori che stanno mandando i messaggi, sono veramente, non ho le parole verso il signore che lei in quella cricca di avvocati. No, un momento, presidente Alpa, non portiamo rispetto, non facciamo... Rispetto, va bene, porto rispetto, però il mio pensiero per me è una cricca. Però, per quanto riguarda le liberalizzazioni, che l'unica cosa di buono che aveva fatto il governo di sinistra era Bersani sulle liberalizzazioni, dove, io non dico sugli avvocati, ma dico anche sulle parafarmacie, dove ci sono nuovi assunti, ma giovani, che escono dall'università, ricordiamo 200.000, dove questo governo sta tornando indietro. Parliamo probabilmente dei telefonini, dove l'unico concorrente, dove c'è concorrenza e dove ci si vede che le tariffe sono minime, è la telecomunicazione. Allora, per chiudere Giannino, che noi siamo con la liberalizzazione, ma questo governo sta lei dice sempre che non ci sono investitori dall'estero che vengono a investire qua in Italia. Domanda: ma se noi ci chiudiamo in questo modo, che parte dall'alto, come fanno praticamente quelli dall'estero a venire a investire in Italia? E come noi possiamo uscire in questo momento di crisi, oppure dopo, quando ci sarà sviluppo, in questo modo, se praticamente gli investitori... Grazie Luigi, ti interrompo perché punto chiaro aggiuntivo che non abbiamo toccato, effettivamente il grado di concorrenza, quello per cui siamo bassi nel graduatore internazionale comparato alla libertà del mercato, tipo Index of Economic Freedom, quello che ogni anno fa la Heritage Foundation insieme a Wall Street Journal, è uno degli elementi principali per i cosiddetti IDE, cioè gli investimenti diretti esteri, e in questo quindi Luigi ci ha aggiunto un elemento prezioso di riflessione. Sentiamo Alessandro da Bologna, come la pensa Alessandro? Buongiorno. Dunque, io volevo dire questo: sono iscritto a un ordine professionale, l'ordine professionale in Emilia Romagna degli psicoterapeuti, e la mia testimonianza è questa: l'ordine in realtà... Spero che non abbia telefonato per offrirmi un metodo di cura, ecco, per così dire. No, però lo accetterei volentieri. No, telefono invece in preda alla disperazione per essere iscritto a un ordine professionale come quello che mi rappresenta, e il problema sta nel fatto che è un ordine macchinoso, estremamente burocratico, che fa concorrenza agli iscritti stessi, perché se dovessi fare degli esempi, ad esempio sulla formazione, in molti ambiti della nostra professione la formazione si fa carico l'ordine di farla gratuitamente, a dispetto di tanti altri professionisti che invece voglio dire, hanno una specializzazione apposita e potrebbero avere mercato da questo punto di vista. Oppure Alessandro, le posso fare una domanda? Certo. Io ho insistito due volte nel chiedere al presidente Alpa, poi rispetto al fatto che siccome il presidente Alpa non è uno sprovveduto, se non mi risponde e risponde in un altro modo, io non mi metto a insistere perché sennò poi la seconda volta, la terza volta diventa antipatica. Io ho chiesto a lui, ma ci rispiega il perché le tariffe minime? Lui ci ha spiegato che quelle servono a non approfittare dei clienti, al limite questa può essere una risposta che vale ovviamente per le tariffe massime, ma non per le minime. Allora le chiedo, nella sua visione del suo ordine in questo caso, lei pensa che le tariffe minime servano a un codice deontologico o servano semplicemente a rappresentare una barriera anticoncorrenziale di tutela per chi è dentro il castello dell'ordine? Ma io penso che una barriera di tariffe minime sarebbe sfavorevole per l'utenza, non tanto per chi pratica la professione. Ci sono delle persone che, almeno nella mia esperienza, non possono permettersi neanche le tariffe minime, non per questo non possono avere diritto ad accedere comunque ad alcuni tipi di prestazioni, no? E le tariffe minime li escluderebbero in questo senso, quindi io non sono assolutamente d'accordo. Credo però che l'ordine debba limitare in un certo senso la sua funzione a quella di un controllo deontologico, a quello di un controllo di un abuso della professione, che poi guarda caso sono i settori sui quali ci sono meno interventi dal punto di vista, ripeto, della mia esperienza. No, capito, grazie. Alessandro Bologna. Dario da Brescia, lei che dice? Allora, io dicevo che le tariffe minime sembrano, così come sono configurate, una garanzia e una protezione, per cui le escluderei. La cosa che volevo dire però, per privatizzare, siccome non è la prima volta che Catricalà solleva questa questione, allora secondo me sbaglia, perché mi sembra un grido manzoniano. Lui dovrebbe sollevare la questione quando c'è un fatto concreto davanti, quando vede una iniquità e un'ingiustizia. Lei dice che le autorità parlano innanzitutto con le decisioni concrete del regolatore più che con le relazioni annuali al Parlamento. Esattamente. E l'altra cosa è che le privatizzazioni non ci sono in Italia perché non c'è una volontà nuova di regolare i rapporti tra l'economia e il mercato. Grazie a Dario da Brescia. Anch'io ritengo che la cultura del regolatore in un paese che, come ci ha ricordato Guido Gentili, è arrivato molto tardi alla regolazione con autorità indipendenti di settore, si conquista innanzitutto con il coraggio, oltre che con la precisione, delle decisioni che il regolatore è chiamato ad assumere in vicende concrete. È ovvio che quando ieri, per esempio, l'Autorità Trust dice: "Ma io sulle quote intrecciate Mediobanca Generali non ho potere per fare alcunché", cito apposta questo intreccio che è delicatissimo nell'architettura dei quattro patti sindacati che contano davvero nel nostro paese, è come dire: signori miei, che cosa volete che io possa fare? La frase che vi ho letto sulla televisione è un'altra frase che va in quella direzione, e lo dico non per incarognire con le polemiche, ma perché è vero anche secondo me che talvolta con decisioni coraggiose e che sfidano poi il successivo regime di impugnative di fronte agli organi amministrativi della giustizia amministrativa, forse si fanno fare passi avanti più concreti, anche sfidando la politica, su terreni sui quali la politica per interessi evidenti ha meno facilità a procedere. Ora, una difesa da parte del direttore auto dell'ANIA, quindi l'Associazione Nazionale delle Assicurazioni, che è Vittorio Verdone, collegato con noi. Buongiorno Verdone, io le rileggo la frase che ha pronunciato ieri Catricalà relativa al vostro settore, per sentire la vostra risposta ai nostri ascoltatori. Allora, i premi relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica, nonostante le recenti riforme, continuano a salire secondo dinamiche non chiare. La rilevante incidenza della spesa per questo servizio sui costi di famiglie e imprese, di recente confermata dall'ISVAP, ha indotto l'autorità ad aprire un'indagine conoscitiva. Ci aspettiamo dagli operatori la massima collaborazione. Devo dire che i nostri ascoltatori, subito, io l'avevo già citato apposta questa frase, raffica e cose, ma sì, di più. Beh, voi non riuscite proprio ad apparire agli italiani se non come un cartello di conniventi, come mai? Ma questa storia del cartello risale a una vicenda che in realtà si limitava ad andare a considerare come cartello, che in realtà non era, uno scambio di informazioni tra imprese su fattori di rischio. Ma vedi, la frase di Catrica là però bisogna leggerla con attenzione, perché lui l'ho riletta apposta, infatti non è giù. Fa riferimento a dei costi, no, che sono stanno crescendo al di fuori, diciamo, di qualsiasi logica. E i costi sono appunto il sistema risarcitorio italiano, perché il punto dell'RC auto, di cui ovviamente i prezzi non sono solo che l'estrema, diciamo, conseguenza finale, e quindi l'apprezzamento viene fatto solo e sempre costantemente sul prezzo, il punto è la struttura dei costi, che è una struttura distorta per molti elementi. Le faccio un esempio molto pragmatico che nei giorni scorsi ha avuto particolare successo, il confronto tra noi e la Francia. La Francia è un paese che ha praticamente lo stesso numero di veicoli, una normativa di base che discende, come sappiamo tutti, dal diritto romano, praticamente simile se non identica. Ebbene, in Francia noi su questo numero di veicoli abbiamo esattamente la metà degli incidenti risarciti dal settore assicurativo. E qui c'è tutto lo storico comprovato dibattito che è fatto su cose vere, su cui tanti in ascolto dovrebbero riflettere, su le frodi elevatissime, i finti incidenti, il sistema parallelo non dichiarato delle riparazioni che si rifà come fonti di approvvigionamento finanziario sui premi pagati dalle assicurazioni impropriamente, eccetera eccetera. E questa è una componente essenziale, ma spiega da solo. Perché le frodi spiegano solo una parte, le speculazioni spiegano solo una parte di queste differenze. In realtà, andando a vedere bene, noi speriamo che l'antitrust lo faccia, perché lo sanno far bene, le indagini le fanno bene accuratamente, bisogna considerare anche tutta una parte, come dire, consentita dall'ordinamento giuridico. Allora, faccio un esempio questo concreto. Confronto di 1 milione di infortunati che noi paghiamo ogni anno per risarcimenti da incidenti stradali, e i 170.000 francesi, non dipende mica solo dalle frodi, dipende dal fatto che il nostro ordinamento ha una normativa lasca, benevolente, che riconosce invalidità permanenti dell'1% a soggetti che per lo più hanno un'inabilità temporanea, cioè pochi giorni, diciamo, di disturbo, poi montano perché effettivamente è un montaggio, un collarino anatomico per contenere le conseguenze di un colpo di frusta, si chiama così in maniera gergale, derivante da un tamponamento magari a 5 km all'ora, e costoro nella maggior parte dei casi, lei diceva i 600 di balaclava, questi sono i 600.000 di balaclava, nella maggior parte dei casi si vedono riconoscere da una normativa così lasca 1 o 2 punti di invalidità permanente, quando questa invalidità non esiste. Ora, si mette mano anche alla norma. Ora questo consente. Esempio concreto rimbalza sugli ascoltatori, e cioè sugli italiani, perché voi dite ci lamentiamo sempre del cartello altrui, ma gli italiani tendono a non essere estranei al fatto che poi ci sono i finti invalidi, invalidità temporanee e permanenti che divengano permanenti e così via. E questo è un altro ragionamento, secondo me, che ci aggiunge un elemento importante alle nostre considerazioni. In definitiva, la relazione dolente di Catrica Là è una relazione che non riguarda solo i singoli settori in cui si articola il mercato e le parti in cui è più chiuso, i servizi, i professionali, eccetera, eccetera. No, il problema è che gli italiani portano ciascuno di loro qualche cappello in testa di qualcuna di queste professioni, attività, rami d'impresa, eccetera, e quel cappello tende ad avere una circonferenza, per così dire, più stretta di quanto sia ampio invece il ragionamento che l'italiano fa da consumatore, volendo il massimo di concorrenza sempre un po' dagli altri, però, e a casa altrui, e mai direttamente troppo a casa propria. Eccoci tornati in studio. I difficili settori della concorrenza italiana, nella relazione annuale dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle richieste di Confindustria, che ha detto a maggioranza e governo: voi state facendo una marcia indietro, quale marcia avanti, malgrado le proposte di riforma costituzionale. Abbiamo sentito un po' di voci, quelle del presidente dell'Ordine Nazionale, del Consiglio Nazionale Forense, il direttore auto dell'ANI. Adesso è più difficile, quindi io prego il mio amico Guido Gentili di indossare il metodo e di aiutarmi, perché sennò io finisco malissimo, perché siamo a uno dei punti più classicamente delicati del dibattito pluridecennale oramai italiano in materia, i taxi. E abbiamo collegato con noi da Roma Loreno Bittarelli, che, per chi non se lo ricordasse, buongiorno Bittarelli, presidente dell'URI, detta così però non si capisce molto bene per chi non è romano, presidente della cooperativa romana 3570, punto di riferimento storico del dibattito sulla categoria e con la categoria da parte di diversi sindaci successivamente nella storia della città. Colonno Bettarelli, facciamo un secondo il punto, perché a Roma ci siamo, per così dire, nel Consiglio Comunale. C'è di nuovo, Roma non è solo la città, è, diciamo, la capitale ha costituito il rumore di fondo dell'oscillazione pendolare tra liberalizzazione dei taxi o tariffe più alte dei taxi e liberalizzazione della concessione delle licenze o aumento, ma sempre con una grande attenzione alle licenze a chi esercita la professione di tassista. Quindi Roma ancora una volta forse ci fa capire in che direzione andare. Dice Lorenzo Bettarelli, gli cedo la parola: guardate che qua ci dovete dare degli aumenti ed è inutile che dite di no, perché altrimenti avete già capito in passato che la categoria, diciamo, si fa rispettare. Come stanno le cose, Bettarelli? Ma in realtà fanno esattamente l'opposto di come lei le ha rappresentate e di come ne sta rappresentando la stampa, perché personalmente diciamo sono un po' arrabbiato con questa amministrazione perché non decide. Questo è un argomento che abbiamo affrontato, iniziato ad affrontare il 15 gennaio 2009, siamo un anno e mezzo che ci stiamo facendo chiacchierare da tutto il mondo e non si decide nulla. La nostra è innanzitutto un'incitazione a decidere e secondo poi chiediamo con fermezza di rivedere l'entità della tariffa, soprattutto per la tratta di primi 5 chilometri, che così come è proposta prevede un incremento di circa il 70%. È una cosa assurda che abbiamo cercato di far comprendere in tutte le maniere sia al sindaco che all'assessore e non siamo stati ascoltati e ora ci arrabbiamo perché noi non vogliamo spennare i nostri clienti. Però, Bettarelli, io glielo faccio ripetere perché lei ha accolto un elemento polemico che non c'è, perché io in realtà, come spiego sempre ai miei amici tassisti, io mi indigno per il fatto che è stato molto facile montarvi una campagna contro come se voi fossi nemici pubblici numero uno in Italia e io spesso a chi la fa inviterei a lavorare per strada, come a me dicono sempre vai in fabbrica, io la differenza è che vengo da un quarto operaio di fronte alla fabbrica, io dico beh provate a fare il tassista a giro per le strade italiane, poi ne parliamo, visto che loro sarebbero i milionari che non pagano le tasse. Detto questo, io li invito a ripetere, perché chi in ascolto e non segue il dibattito Roma non ha capito, voi state chiedendo che gli aumenti di tariffa minima predisposti dall'amministrazione romana, in quanto troppo alti, non siano così alti nei primi minuti, è così? Esattamente questo, e nel contempo chiediamo di sollecitiamo l'amministrazione a chiudere questa vicenda che sta da troppo tempo, quindi noi siamo per abbassare l'importo diciamo tassametrico che passerebbe secondo la proposta da 0,92 attuali agli 1,52 futuri, chiediamo di abbassare almeno un po' per dare un segnale alla cittadinanza e nel frattempo deliberare subito questa tariffa. Abbiamo anche chiesto, ma su questo pare che ci sia un accordo, proprio ieri pare che ci sia stato un incontro con il sindaco di Fiumicino e l'assessore di Roma Marchi, per una diciamo unificazione della tariffa con il comune di Fiumicino, perché è una vergogna, è vero che sono i taxi di Fiumicino rispetto a Roma, però è una vergogna quando un cliente sbarca a Fiumicino, dato che è obbligato a prendere il primo taxi della fila, se gli capita un taxi di Roma paga 40 euro per andare in centro, se prende uno di Fiumicino paga il 50% più, ossia 60 euro per lo stesso percorso. È una cosa ridicola, diciamo che è soggetta a tantissimi reclami da parte della nostra utenza, quindi noi abbiamo sollecitato i due comuni, visto che sono anche adesso dello stesso colore politico, a trovare un'intesa, a mediare questo prezzo. Noi avevamo proposto 50, pare che si stiano accordando per 48, ben venga, però troviamo una soluzione che dia un segnale di trasparenza nei confronti della nostra utenza. Grazie anche a Lorenzo Bettarelli, per una volta speriamo che Radio 24 non sia individuata dai tanti tassisti che ci ascoltano, perché sono un popolo fedele di questa radio, questa è la mia esperienza, come la nemica pubblica numero uno, nel senso che come vedete siamo alieni da questo. Certo, vi siete trovati in centro per un bel po' di anni a pagare un prezzo molto amaro. Io poi, conoscendo i problemi della categoria, distinguo molto tra la specifica realtà di Roma rispetto a quella di altre città italiane. Allora, non c'è tempo per approfondire, chiedo a Guido Gentili invece una considerazione di ordine finale in merito alla sua opinione sulla reale possibilità in termini temporali e in termini di approvabilità secondo le procedure previste dalla Costituzione di queste modifiche promesse dal governo sull'articolo 41 e sul 118. Che ne pensi? Ma Tremonti ha azzardato una previsione dicendo si può fare in 4 mesi una revisione costituzionale dell'articolo 41 e degli altri articoli tipo il 117 e il 118. Io credo che l'operazione sia onestamente difficile da prevedere in questi tempi. I tempi sono certamente più lunghi e il clima parlamentare su questi temi inevitabilmente si scalderebbe nel momento in cui queste proposte vengono formalmente avanzate, perché c'è un fronte molto ampio e molto importante, non solo politico ma anche accademico, contrario a toccare alcunché della Costituzione. E quindi io faccio delle previsioni, diciamo, di tempi più lunghi, e per questo dico che è importante comunque aprire questo dibattito, comunque andare avanti, e nel frattempo però magari con lo strumento della legge ordinaria fare qualche passo concreto subito sulla strada delle liberalizzazioni. Io però non chiudendo le porte al dibattito. Esatto, mi associo anch'io sia all'auspicio del dibattito sia alla legge ordinaria, e soprattutto appello ai componenti delle autorità: invece di pensare alle conferme, perché questo è quello che si legge sui giornali, prendete decisioni tali da farvi ricordare con rispetto, anche se magari vi mandano a casa prima, perché ogni tanto correre di questi bei rischi, farsi mandare via, è sempre una bella cosa in questo paese in cui così pochi vengono mandati via per il coraggio delle loro decisioni. Appello del kamikaze suicida sempre, Giannino, a voi fedele in ascolto. Grazie a Guido Gentili, a Guido Alpa, a Vittorio Verdone, a Loreno Bittarelli, grazie a Carmelo Lauricella in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione. Linea Generale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto.